con il musicista Paolo Vivaldi, autore della colonna sonora del film Le seduzioni di Vito Zagarrio, al cinema da giovedì 22 febbraio 2024. Ben trovato. Salve a tutti, eccomi qua. Beh, Che lavoro è stato? dunque, innanzitutto è stato un lavoro particolare perché lo abbiamo fatto praticamente a distanza, perché era il periodo del Covid, quindi molto particolare perché ci si riusciva a vedere poco. È stata la prima volta che ho fatto una colonna così, quindi sono particolarmente legato a questa situazione anche da motivi proprio che veramente emotivi di quel particolare momento difficile. Però è stato un bel lavoro perché Vito mi ha lasciato spazio sia nella colonna sonora di raccontare questa storia come lui la definisce, appunto questo thriller sentimentale, con un tema che è un leitmotiv che torna diciamo spesso. E poi c'è stato l'inserimento di questa canzone che ho realizzato con Pilar, che è un artista eccezionale, che sarebbe Ilaria Patassini in arte Pilar, che è una cantante insomma di livello affermata che già fa grandi cose da anni e con la quale avevo già una collaborazione precedente. Abbiamo fatto questa canzone che è stata incisa allo Studio Forum a Roma e che appunto racconta un po' la storia del film. Il testo è di Pilar, la musica è mia. Ed è stata incisa anche quella in un momento particolare, però devo dire che quella è stata realizzata in realtà in studio, eravamo tutti in studio. Ed è un bel pezzo molto particolare che Pilar ha interpretato veramente nella maniera come sa fare lei, con grande eleganza. Allora, un lavoro fatto durante il Covid, quindi in confinamento. Hai lavorato sulle immagini? Sì, assolutamente, certo. Poi ci siamo confrontati soprattutto col grandissimo Roberto Perpignani, che è uno dei più grandi montatori veramente della storia del cinema. È stato un onore lavorare insieme a lui, ovviamente con Vito, ed è stato un lavoro d'équipe. Passo passo siamo riusciti ad arrivare a fare questa colonna che spero accompagni il film in maniera giusta, perché bisognava andare a cavare un po' in questa storia, in questi sentimenti del nostro protagonista maschile, ma soprattutto di tutto il contorno delle donne che lo circondano e di questo finale così particolare di questo film, che appunto poi alla fine diciamo, parte di nuovo la canzone che accompagnerà il titolo di coda. Come hai cercato di rendere questa trasformazione di quest'uomo che da glaciale si innamora? C'è un tema che si va sviluppando lentamente, finché lui, appunto, nella fase in cui lui si innamora, il tema esce fuori musicalmente. All'inizio è semplicemente accennato e non è svelato nella sua interezza. Quando lui si innamora, il tema prende corpo, e poi alcuni elementi del tema, anzi, soprattutto la parte centrale, viene poi ripresa nella canzone dove è stato appunto aggiunto il testo, quindi è un lavoro con uno stile tematico, ecco. E c'è anche una fase misteriosa con questa donna enigmatica. Sì, all'inizio ci sono delle sospensioni, delle situazioni musicali che tendono a creare un minimo di suspense, ma una suspense diciamo psicologica più che da film realmente thriller, insomma. Sei avvalso di un'orchestra? Sì, la parte degli archi sì, è stata poi registrata con un'orchestra, ma prevalentemente gli strumenti fondamentali sono il pianoforte e poi c'è questo sax soprano suonato da Marco Guidolotti, che è il mio sassofonista con il quale diciamo ho condiviso grandi avventure, tra cui Non essere cattivo, Scaligari. Infatti abito piacque moltissimo quella colonna e mi indicò che voleva un suono di quel genere, ecco. Quindi col sax soprano c'è questo tema che ricorre all'interno del film. Verrà pubblicata la musica? Penso di sì, adesso con l'uscita del film devo sentire l'editore, che Simone Sciumbata, la Telecine Sound, un giovane editore molto bravo, molto in gamba, e penso che sicuramente sì, a questo punto si uscita del film viene pubblicata. Il film Le Seduzioni al cinema da giovedì 22 febbraio 2024 per la regia di Vito Zagarrio. Un saluto e un ringraziamento al musicista Paolo Vivaldi, autore della colonna sonora. A presto! Grazie a voi, vi aspettiamo al cinema. Ciao ciao!